cos'è quest'estate. Una buona giornata da Laura Bettini, sono le 8 e 12 minuti, come diceva poco fa Maria Piera Ceci in GR24, apriamo subito questa puntata collegandoci con il Libano. Libano, come appunto sapete, ieri colpito per una grande esplosione nella sua capitale Beirut, una esplosione che ha provocato almeno 100 morti secondo le ultime agenzie, migliaia di feriti, una devastazione nell'area del porto, ma anche in aree ben lontane dal porto della città. Cosa sarebbe successo? Un incendio, almeno inizialmente, in un deposito nel porto di Beirut dove erano immagazzinate 2750 pare tonnellate di nitrato di ammonio, che viene utilizzato come concime in agricoltura ma anche per altre situazioni, cioè una base per diversi esplosivi. Ma il punto è che è esploso e ha provocato quello che ha provocato. Allora ci colleghiamo con Beirut dove c'è Lorenzo Forlani, corrispondente dell'agenzia AGI. Buongiorno a te Lorenzo. Buongiorno, buongiorno. Ultimi aggiornamenti, se possiamo darne, sulla situazione. Ho letto di 2 settimane di stato di emergenza appena proclamati, cos'altro si sa? Sì, dunque c'è un bilancio delle vittime in costante aumento, quelle accertate, come vi ricordo, ma probabilmente le vittime sono ben più del doppio, nel senso che io stesso ho esperienza in prima persona di persone che sono alla ricerca dei loro cari che non riescono a trovare. E appunto, come avete accennato, l'esplosione ha devastato in maniera pesante un'area che va fino anche a 1 chilometro abbondante, diciamo, dal sito, e danneggiato fino a 12 chilometri. Io stesso ho il mio appartamento danneggiato con i vetri e io abito più o meno a 7 chilometri in dall'area dal luogo dell'esplosione, quindi abbastanza lontano. E sì, appunto, è stato programmato 2 settimane di emergenza che si aggiungono tra l'altro a un lockdown, e questo è il motivo per cui le vittime sono pochissime, che molta gente era rimasta a casa. Sì, Lorenzo, ti sentiamo malissimo, aspetta un attimo, prova non so, muoverti leggermente dalla posizione in cui sei. E mi sentite? Ecco, adesso un po' meglio, dicevi, situazione di lockdown ovviamente, lì come... Sì, quindi appunto le persone erano in gran parte a casa, quindi credo che si devono avere limiti molto molto più alto, soprattutto appunto nei palazzi adiacenti all'area, ma adiacenti anche... È un'area molto con molte abitazioni, oltre a esserci il porto, quella? Sì, diciamo che il porto è separato da un'arteria, da una sorta di stradone, diciamo, a quadrupla corsia, e poi iniziano, diciamo, i palazzi del quartiere di Mar Mikhail, che è un po' conosciuto da chi frequenta Libano per essere il quartiere della morita, quindi Jemaiz e Mar Mikhail, in particolare Jemaiz, cioè sostanzialmente Rungurò, che è una linea storica di Beirut, è veramente irriconoscibile. E parliamo appunto già di una via che in linea d'aria è a 1 chilometro distante dal luogo dell'esplosione. Allora, noi abbiamo il collegamento con la viabilità, nel frattempo proviamo a recuperare la linea con Lorenzo Forlani, corrispondente per l'agenzia AGI. Sentiamo quindi la viabilità. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Ma cos'è quest'estate? E siamo sempre in collegamento con Lorenzo Forlani, agenzia AGI. Lorenzo, se tiene la linea, vorrei chiederti se si sa qualcosa di più sulle origini di questa esplosione. Ovviamente tutti hanno pensato, no, all'attentato, addirittura Trump lo sta ventilando, ma al momento mi sembra che questo venga negato dalle autorità. Sì, assolutamente. Non so se mi sentite. Sì, assolutamente viene negato dalle autorità e appare anche abbastanza inverosimile per la dinamica. Quello che dovrebbe essere successo in qualche modo è a mettere tra i primi resoconti e la versione che più o meno si sta profilando come ufficiale, nel senso appunto 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio che erano state per qualche motivo ancora non chiarito immagazzinate al porto perché sequestrate da una nave. Da una nave che era stata appunto fermata per posteriormente a proseguire questo circa 7 anni fa, il cui armatore tra l'altro si sarebbe anche dato alla macchia, parliamo di un armatore moldavo se non sbaglio, una nave che partiva dalla Georgia, questo però non è confermato. Quello che è confermato appunto è che l'esplosione è dovuta a questa reazione, diciamo, a questa esplosione di un enorme quantitativo di nitrato di ammonio, e ha messo con i primi resoconti, perché appunto la prima versione si parlava di questo deposito di fuochi d'artificio che, secondo una fonte della General Security con cui ho parlato un paio di ore fa ancora, mi diceva appunto che la cosa sarebbe confermata, cioè nel senso un deposito di fuochi d'artificio sarebbe esploso, un incendio minore che poi è sconfinato in questa zona piena. Quindi c'è una catena incredibile tra i fuochi d'artificio che esplodono, provocano un incendio, raggiungono il magazzino dove è contenuto questo nitrato di ammonio, così? Esattamente, esattamente. Io penso anche che, adesso vado come dire a intuito, nel senso anche che le forze di sicurezza in questo momento stanno cercando di ricostruire la dinamica, e il fatto di aver confermato che l'esistenza comunque di questo deposito di fuochi d'artificio si è portata da alcuni video che si vedono appunto, diciamo, dei video che riprendono la prima esplosione quando c'è ancora un piccolo incendio, e si vedono dei piccoli, diciamo, scoppiettini, sì, come dire, per poi appunto deflagrare. Per la deflagrazione finale. Allora Lorenzo, ti dobbiamo salutare anche perché purtroppo la qualità audio non è ottima. Sentiamo se comunque ti ringraziamo ovviamente, buon lavoro, buona giornata. Francesca Zadro è in collegamento con noi adesso da Beirut, sentiamo se si sente meglio, responsabile ufficio ICE, Agenzia di Beirut, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha vissuto, diciamo, come tutti quelli che abitano ovviamente in quella città, questa situazione, ma l'ha vissuta in maniera particolarmente ravvicinata, è riuscita, diciamo, a non subirne le conseguenze. Ma cosa è successo ieri quando lei appunto era per strada, mi diceva si è riuscita a riparare, e soprattutto poi dopo tanti l'hanno chiamata per sapere delle sue condizioni di salute? Sì, guardi, è successo. Io stavo camminando, mi stavo recando in albergo e probabilmente ho sentito un boato sordo, un rumore che non avevo mai sentito in vita mia, una luce improvvisa, poi un altro boato ancora più forte. Ho cominciato a correre, mi sono istintivamente protetta dietro una colonna, sono accovacciata lì, e quando mi sono rialzata ho visto che attorno a me era tutto coperto di vetri. Io quanto non so distante che cosa... era dal porto? In quel più momento. O meno a quel punto, più o meno sui 2 chilometri. Sui 2 chilometri? Sì, più o meno. E invece, diciamo così, che nella cattiva sorte c'è stata una piccola buona sorte, perché l'abitazione in cui fino a poco prima era, insomma, è stata parzialmente distrutta. Sì, estremamente danneggiata, sì. Tant'è vero che chi pensava che fossi dentro, sono quelli che si sono preoccupati di più, perché pensavano fossi in difficoltà, diciamo. Certo, e invece lei non era lì e ha passato la notte in un albergo dove, mi diceva, quasi tutte le stanze hanno vetri distrutti. L'albergo è parzialmente inagibile, tutto il lato, diciamo, che guarda dal porto non ha le finestre, il lato che non guarda dal porto ha le finestre parzialmente distrutte. Io ho una stanza, sono riuscita a darmi una stanza senza finestre, una parte delle finestre sono crollate. Quindi diciamo che in tutto questo è andata molto bene, anche vista la portata dell'incidente, le vittime, i feriti, i danni alle case. E ovviamente professionalmente, come responsabile dell'ufficio ICE lì, lei ha pensato anche al povero Libano, che già versava in condizioni sociali ed economiche molto difficili. C'era ovviamente anche lì un lockdown, come abbiamo sentito, per via dell'emergenza Covid-19, e adesso c'è anche un blocco totale, diciamo, del porto per chissà quanto. Sì, esatto. Il Libano è un paese che importa quasi tutti i suoi prodotti, anche i beni intermedi e le materie prime per la produzione locale. Quindi è chiaro che già in una situazione di crisi economica, dove le importazioni saranno fortemente ridotte, il blocco dell'inagibilità del porto per chissà quanto tempo creerà ulteriori problemi all'economia libanese, che è già in gravissima sofferenza. ci sono altri porti, quindi sicuramente le merci continueranno ad entrare, ma è chiaro che anche le infrastrutture stradali del Libano non riescono a sopportare una decentrazione dello smistamento delle merci. Comunque il Libano è un paese, nonostante tutto quello che ha sofferto, estremamente forte, riesce a risollevarsi, credo che passerà anche questo momento. Ho visto la reazione delle persone dopo l'evento, erano tutti sconvolti, tutti pensavano fosse prima un bombardamento, poi un attentato, e poi quando si è capito che insomma è stato un incidente gravissimo, ma un incidente, poi hanno cominciato a spazzare per terra, a rimuovere i vetri dalla reception dell'albergo e passavano sotto i vetri rotti, le vetrate dei vetri rotti, hanno tirato fuori un computer tutto impolverato, pieno di vetri, hanno cominciato a rifare i cecchini. Francesca Zadro, se vuole restare in collegamento ovviamente resti, ci fa molto piacere. Io do intanto il benvenuto ad Armando Sanguini, già ambasciatore, ora senior advisor di ISPI, buongiorno. Buongiorno a lei. La situazione libanese un po' appunto sul momento ce l'ha descritta Francesca Zadro. È molto bene anche. È anche molto bene da un punto di vista anche commerciale appunto ed economico del paese. Ha anche ricordato il difficile passato del Libano, no? Tutti hanno pensato a un bombardamento, questo l'abbiamo pensato anche noi, ambasciatore, probabilmente l'ha pensato anche lei sul momento. Direi un bombardamento che... o comunque un attentato, un'esplosione provocata, ecco, questo l'abbiamo pensato penso un po' tutti. Lo sta implicitamente, anzi no, esplicitamente dicendo anche il Presidente degli Stati Uniti ultimamente, no? Somiglia a un terribile attentato. Poche ore fa, quindi. Ma non c'è nessun vantaggio però, diciamo, a pensare un attentato lì, perché è una zona talmente delicata che un attentato... No, ma soprattutto, vede, perché... quello che sì si può sottolineare è l'incuria con cui si è lasciata questo materiale esplosivo rimanesse lì senza sorveglianza, senza controllo, e a questo ha fatto riferimento dall'altro il Presidente della Repubblica libanese dicendo no, i responsabili saranno puniti, facendo più riferimento appunto a un posso dire un errore, un tragico errore di ignoranza che non ha una colpevolezza. D'altra parte sia Hezbollah che Israele, i due protagonisti diciamo di questo conflitto carsico, hanno negato qualunque coinvolgimento, quindi quando due nemici si autodifendono no, qualche ragione ci sarà. Resta il fatto che è un paese disastrato e oggi posso dire in conseguenza di questo ulteriore mannaia che l'ha colpito ha ritrovato una solidarietà internazionale che fino a due giorni fa non c'era più per il suo coinvolgimento con la Siria per tutte le ragioni che noi conosciamo. Sì, non c'era più neanche nei confronti di quelle migliaia di persone che per giorni e giorni hanno manifestato, hanno protestato per le strade, hanno, no? Ci siamo proprio completamente dimenticati del Libano. L'abbiamo ignorato, come spesso succede per quanto riguarda il Medio Oriente, siamo talmente abituati, tra virgolette, alle proteste, ai movimenti di massa che vengono repressi, pensiamo all'Algeria, pensiamo all'Iraq, per non parlare della Siria, per cui un fenomeno di protesta come quello di un Libano che è allo stremo sia per la corruzione che per le condizioni economiche, finanziarie e sociali non ha trovato spazio. No? Questa esplosione terrificante riporta ad attualità questo paese che in fondo meriterebbe molta più attenzione anche per le implicazioni regionali che ha. E per le relazioni che ancora ha con l'Italia, mi perdoni se la interrompo perché... No, prego, le relazioni che ha con l'Italia che sono relazioni sempre state molto positive, noi tra l'altro abbiamo lì facciamo la nostra parte in sede con le truppe dell'ONU, tra l'altro abbiamo avuto un soldato credo ferito proprio a seguito di questa esplosione quindi tra l'Italia e il Libano c'è sempre stato un rapporto di amicizia tra i popoli, ecco. E non casualmente le prime reazioni anche italiane sono state tempestive e cariche, ecco, di umanità, e questo mi sembra molto importante sottolinearlo in questo momento. Visto che Francesca Zadro è ancora in collegamento con noi, ne approfitterei per chiederle quali sono, sia pure a grandi linee, le relazioni che intratteniamo da un punto di vista commerciale con il Libano. Sono solide? Sì, noi siamo stati il secondo partner commerciale del Libano per moltissimi anni, comunque negli ultimi 10 anni tra i primi 5 partner mondiali, con Stati Uniti, Cina, Russia e Grecia. Siamo stati i primi partner europei del Libano per moltissimi anni, quasi 10 anni. Negli ultimi 2 anni ci ha sottopassato la Grecia, perché esporta principalmente idrocarburi per il 90%. Noi abbiamo un export molto, molto variegato, per cui riusciamo a esportare in Libano dagli idrocarburi ai macchinari, soprattutto macchinari che servono all'industria locale, e poi ovviamente beni di consumo, dalla moda ai prodotti alimentari. I nostri prodotti sono molto apprezzati, il Libano è un paese che riconosce la qualità del prodotto italiano, e gli imprenditori libanesi amano fare affari con gli imprenditori italiani, proprio per la capacità anche di relazionarsi. L'area mediterranea che ci aiuta, oltre alla qualità dei nostri prodotti. Le cose stanno andando male, ma stanno andando male ovviamente per noi come paese esportatore, ma soprattutto per loro, per il Libano, perché appunto l'Italia non esporta soltanto prodotti finiti, ma proprio quei prodotti che servono all'industria locale. E il Libano ormai alla fine del 2019 aveva ridotto le importazioni del 25%. Gli ultimi dati disponibili della dogana libanese indicavano nei primi mesi del 2020 una contrazione di quasi il 50%, con tutte le conseguenze che poi possiamo immaginare, anche per il Libano come paese esportatore, anche se le esportazioni del Libano sono molto ridotte, ma è chiaro che in una situazione come questa è anche difficile produrre per riuscire ad esportare. Io ringrazio entrambi, Armando Sanguini, ambasciatore, senior advisor di ISPI, e Francesca Zadro, responsabile dell'ufficio ICE, agenzia di Beirut, in collegamento con noi. Buon proseguimento di giornata, abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ma cos'è quest'estate? A proposito di esplosioni, volevo solo così una piccola aggiunta alla pagina che abbiamo appena chiuso. Esplosioni causate dal nitrato di ammonio, scrivono alcuni ascoltatori, ma l'avevo anche io appuntate. Altri disastri dovuti al nitrato di ammonio: Texas City 1947, Halifax dovrebbe essere 1917 forse, porto di Tianjin 2015, quindi preciso. In Cina, morte 173 persone, anche lì distruzione tutto intorno dovuta al nitrato di ammonio. È una materia pericolosa che va trattata e stoccata con particolare cura e attenzione. Qui abbiamo sentito 6 anni di abbandono, e quindi insomma poi l'esplosione tra i fuochi d'artificio, l'innesco, ci sono mille coincidenze che possono accadere, però il fatto era che era tenuta lì dove non doveva essere, probabilmente. Allora, cambiamo pagina a questo punto, do il benvenuto di nuovo a Maurizio Caprino, Sole 24 Ore, buongiorno. Andiamo Grazie, sempre a disturbarti la mattina, Maurizio, ci dispiace, dai. Allora, questa volta perché? È un piacere. L'altra volta abbiamo parlato di bonus, come volete, insomma, si può sempre recuperare il Sole 24 Ore su quei temi. Adesso andiamo a parlare di un'altra cosa. Abbiamo letto diversi articoli di giornali che riguardano il futuro di FCA e soprattutto il suo indotto italiano. Ti leggo qualche titolo. FCA chiude con parte dell'indotto italiano, le city car saranno francesi, allarme. Pianale PSA per le future compatte dell'FCA, l'indotto italiano trema. Fusione FCA-PSA, il PD dice tutelare gli stabilimenti italiani. Insomma, che cosa sta succedendo, o forse quale tipo di preoccupazione serpeggia, ma non è detto che sia proprio così? Ma sta accadendo quello che era abbastanza nelle cose, nel senso che ovviamente quando si fa una fusione, soprattutto in un settore saturo in buona parte del mondo come quello dell'automotive, ovviamente lo si fa anche per cercare delle sinergie produttive. Lo hanno fatto tanti altri gruppi, è ovvio che debba farlo anche la nascente unione fra FCA e PSA. Naturalmente dal punto di vista delle piattaforme, normalmente PSA è avvantaggiata, perché FCA ha smesso di investire da anni, cioè parliamo di compatte, insomma l'ultima compatta della PSA che sta donando poi nella sua ultima evoluzione il pianale all'attuale Fiat Tipo, era la cosiddetta grande punto del 2005, quindi è ovvio che non convenga a FCA andare a investire in un nuovo pianale quando ci si va a mettere insieme a un gruppo che invece ha già un pianale più moderno e anche più adatto a eventuali sviluppi di elettrificazione. Quindi diciamo che visti da chi ha un po' di occhio, questa è una non notizia, così come è abbastanza prevedibile il fatto che qui trattandosi di un confronto fra una parte italiana e una parte francese, storicamente lo Stato francese in tutti i settori produttivi ha sempre mantenuto una sua voce in capitolo, certo, piuttosto grande. Insomma, ricordiamo che appena all'inizio dell'anno scorso c'era stata una grande polemica che aveva coinvolto proprio Francia e Italia sull'acquisizione dei cantieri navali francesi STX da parte Fincantieri. Ecco, e questo è soltanto l'ultimo episodio che si ricordi, ma potremmo andare avanti per qualche minuto. No, certo, non hanno mai mollato i francesi su questo punto. Volevo dirti però, ho visto anche di questa lettera che è stata ricevuta dai fornitori italiani. Diversi fornitori italiani dicono di aver ricevuto una lettera in cui gli si dice: caro fornitore, cessa immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione onde evitare ulteriori costi e spese. Questo fa parte di questo piano per il futuro, quindi, Maurizio? Diciamo che è possibile, anche se qui dobbiamo precisare alcune cose, nel senso che ovviamente il coronavirus ha un po' probabilmente accelerato qualche programma in tal senso, e comunque diciamo che anche che storicamente, da quando c'era la Fiat propriamente intesa, i rapporti con della Fiat stessa con i fornitori italiani sono sempre stati improntati a una certa disparità, cioè si trattava di un contraente forte con tanti contraenti deboli, quindi c'erano anche tempi di pagamento piuttosto lunghi nei confronti delle imprese italiane, c'erano anche i divieti mai dichiarati, ma di fatto vigevano, di entrare in stabilimenti Fiat con veicoli di altre marche. Insomma, era tutta un'area che questo si sa da decenni, e quindi il tono perentorio che tu hai citato va letto alla luce di questi due fattori, quindi io non sarei proprio sotto questo aspetto non sarei troppo allarmistico, ecco. Un ascoltatore chiede correttamente se PSA non ha inviato la medesima lettera ai fornitori francesi. Chi lo sa, tu hai notizia di questo? No, non ce n'è notizia, però insomma tutto può essere, anche perché non è che si debbano certe cose, non si comunicano, possono anche non comunicarsi per lettera, insomma ci sono tanti modi per far capire determinate cose. Ripeto, poi siamo in una fase come quella del coronavirus, ricordiamo che la stessa PSA ha dovuto, come tanti altri grandi produttori, fermare tutte le fabbriche in Europa, nello specifico lo ha fatto fino a tutto marzo scorso, insomma, quindi da questo punto di vista, ripeto, il momento è, se vogliamo, anche propizio per fare certe manovre, perché certe dinamiche si sono accelerate con un mercato in crisi, però ovviamente noi dobbiamo guardare anche a quella che sarà la questione a regime, e la questione a regime parla comunque di un mercato e di un assetto produttivo che soprattutto in Europa cambia, perché andiamo verso soprattutto l'elettrificazione. Ricordiamo che Maurizio, aspetta che adesso cioè il computer fa qualche bizza, si vede, non lo so, un attimo solo, vediamo se perché ti sentivamo un po' vibrare, diciamo così. Certo è che questa situazione ha messo in ansia tutti gli addetti, no? Che sono, credo, dunque ho letto, ecco, 58.000 addetti dell'indotto piemontese, ma poi ci sono anche tutti, insomma, non sono solo quelli piemontesi, questo perché era un articolo specificamente del Corriere della Sera edizione Torino. Maurizio, ci sentivi nell'ultimo momento? No, l'abbiamo perso di nuovo, del tutto o in parte, chi lo sa. Sicuramente, appunto, sono in allarme questi 58.000 dell'indotto piemontese, e sicuramente sono in allarme tutti gli altri. Ora sicuramente dovremo valutare quello che sta succedendo in Francia, come correttamente diceva l'ascoltatore, e come appunto Maurizio, ci sei? Eccomi qui. Ti abbiamo preso il telefono alla fine. No, sì. Dicevo che ci sono i 58.000 dell'indotto piemontese che sono già in allarme, e questo è comprensibile. Lavoravano principalmente ed esclusivamente per Fiat. Forse questo è stato forse anche un po' un errore? Sì, beh, sicuramente, visto col senno di oggi, è stato un errore, va però anche detto che la crisi del polo automobilistico torinese non è di oggi, sicuramente ci sono state grandi ripercussioni già a partire da almeno una dozzina d'anni, e in questo tempo le imprese migliori hanno già quelle che potevano, appunto quelle che avevano carte da giocarsi sui mercati internazionali, si sono già mosse per diventare fornitori anche molto apprezzati di altri marchi, compresi quelli tedeschi di lusso, una cosa che da un lato ci riempie d'orgoglio, però dall'altro ci indica che chi non è andato su questo, chi non si è impegnato su questo fronte adesso è più a rischio. Ecco, l'altra considerazione immediata, partito subito il dito sui WhatsApp al 349-238-6666, e poi mi rimproverano perché devo ricordare il numero verde 824-0024, e beh, sono anche i soldi, no, che lo Stato italiano nel corso del tempo, ma anche in tempi recenti, diciamo, ha concesso a Fiat. Qui le due cose sono separate, sono insieme, è un misturone, si confonde tutto, mettendo, no? Eh sì, perché purtroppo, appunto, il coronavirus è stata una cosa assolutamente imprevista e imprevedibile, e quindi può aver innescato, anzi accelerato, dinamiche che erano già in corso, quindi è difficile poi distinguere causa ed effetto. Possiamo dire sicuramente che dal punto di vista storico ruolo del costruttore nazionale nelle cose italiane è stato più pesante, più rilevante rispetto a quello che succede con l'industria dell'auto negli altri paesi, ossia l'industria dell'auto in tutto il mondo è uno dei maggiori datori di lavoro in ogni nazione. L'Italia ha però una anomalia, nel senso che non abbiamo, contrariamente ad altri paesi europei, e penso alla Spagna, penso alla Gran Bretagna, non abbiamo sul nostro territorio fabbriche di altri produttori che non siano quello, chiamiamolo ancora, nazionale. Questo ovviamente crea una maggiore dipendenza dello Stato da questo produttore, anche se questo produttore adesso ha una sede altrove. È un bel viluppo, direi. Cioè, sì, non diciamo facilmente... Sì. Beh, diciamo che come al solito l'Italia dal punto di vista della politica non ha avuto storicamente mai grande lungimiranza questo insomma è stato capito un po' da tutti. Ricordiamo che l'ultimo tentativo di una casa automobilistica estera di entrare in Italia è stato quello fallito di acquisizione della Alfa Romeo da parte della Ford e parliamo ormai dell'anno 1986. Dopo di quello c'è stata soltanto la nascita del polo della General Motors sui motori diesel a Torino, ma era un effetto necessitato dalla separazione fra all'epoca la metà degli anni 2000 tra Fiat e General Motors, quelle nozze andate male che tutti ricorderete, che fruttarono una certa plusvalenza finanziaria anche alla parte italiana. Maurizio, ti ringraziamo tanto, sei la Bibbia dell'automotive italiano, grazie davvero, grazie. Buon lavoro, abbiamo un piccolo brano musicale, torniamo tra pochissimo. Snow, cement, and ivory on towers. Someone called us Babylon, those hungry hunters tracking down the hours. But where were all your shoulders when we cried? Were the darlings on the sideline dreaming up such cherished lies to whisper in your ear before you die? Cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare le lingue a questo punto, andiamo a parlare di traduzioni, traduzioni al Parlamento Europeo in particolare, perché un consorzio guidato dalla società italiana Translated, ormai nota in tutto il mondo, che negli anni scorsi ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza artificiale, ha vinto la gara per le traduzioni al Parlamento Europeo e lo farà non con esseri umani o non esclusivamente con esseri umani, ma grazie appunto all'uso dell'intelligenza artificiale. Ci spiegherà un po' come funziona Simone Perone, curatore del progetto europeo per Translated.com. Buongiorno. La sentiamo, adesso la sentiamo. Buongiorno. Allora, lei ovviamente ce ne può spiegare dall'A alla Z, ma noi abbiamo bisogno del resumé per i non esperti della situazione. Come funziona questo nuovo sistema che integra la traduzione, diciamo, no, l'interpretariato umano con quello che può fare un'intelligenza artificiale? Certo. Cerco di essere quanto più chiaro tecnico possibile nella descrizione. Allora, come lei dice, appunto, abbiamo partecipato con un consorzio guidato da Translated, del quale fanno parte anche altre due realtà italiane, per Voice, che è leader nell'ambito delle tecnologie di riconoscimento vocale, e la Fondazione Bruno Kessler, che è uno dei più importanti centri di ricerca al mondo in machine translation, quindi in traduzione automatica. In effetti noi abbiamo partecipato a questo bando, il cui obiettivo è quello di appunto mettere su un prototipo per eseguire in maniera automatica delle trascrizioni e delle traduzioni nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, con la finalità in effetti di non solo consentire una migliore comunicazione fra i membri del Parlamento Europeo, ma anche di rendere trasparenti le discussioni che avvengono al Parlamento Europeo a tutti i cittadini. Perché anche i cittadini potranno seguire. Certo. Ah, è molto bello. I cittadini e in particolar modo, diciamo, c'è una particolare attenzione per le persone che soffrono di forti disabilità uditive. Quindi è un sistema che non va a sostituirsi assolutamente ai servizi di interpretariato che sono presenti in ambito di Unione Europea, ma vuole fornire un servizio complementare appunto alle persone che sono impossibilitate nell'ascoltare una voce che traduce, o che magari semplicemente preferiscono leggere del testo. Quindi questo sistema come funziona? Appunto, come lei accennava, è un sistema di trascrizione e traduzione automatica. In effetti vengono, appunto, durante le sessioni del Parlamento europeo, l'audio dei parlamentari viene trascritto e tradotto in tempo reale e verrà reso accessibile sia tramite un'applicazione web, un'applicazione mobile, e noi prevediamo anche la possibilità di fornire le trascrizioni e le traduzioni tramite delle cosiddette API in gergo tecnico, ovvero altre realtà potranno utilizzare questi dati e rendere disponibili le trascrizioni e traduzioni in tempo reale in eventuali altre applicazioni web o applicazioni mobile. Diciamo, la novità qual è rispetto ad altri sistemi del passato? Che questo probabilmente sarà il primo sistema di traduzione automatica che mantiene l'essere umano nel processo. Noi in generale, come vision dell'azienda, utilizziamo la tecnologia, utilizziamo l'intelligenza artificiale non per sostituire l'essere umano o il lavoro dell'essere umano, ma semplicemente per sostenerlo, per aiutarlo nella sua, diciamo, nella sua attività. E qua potrebbe essere il contrario, l'essere umano sostiene la tecnologia, se ho capito un po' la presentazione di questo sistema. Esattamente, perché ovviamente dovendo fornire delle trascrizioni e traduzioni in tempo reale è impossibile utilizzare gli esseri umani per questo compito, quindi lo dovrà fare la macchina, però nell'ambito del sistema complessivo noi abbiamo la possibilità che dei traduttori professionisti possano fornire, volendo anche in tempo reale, delle correzioni a ciò che viene trascritto o tradotto, e quindi, visto che i nostri sistemi utilizzano una tecnologia che in gergo tecnico viene detta adattiva, diciamo adattiva, reale, perché glielo faccio ripetere, sì, perché è saltata la comunicazione, adattiva. Quindi in particolar modo la traduzione, noi abbiamo sviluppato negli anni questa tecnologia che è in grado di, appunto, adattarsi, di imparare dalle correzioni umane e quindi migliorarsi incrementalmente nel tempo. Quindi in questo senso è l'umano che sostiene la macchina, quindi la macchina impara dalle correzioni dell'essere umano. Quando dico che, appunto, non vogliamo assolutamente sostituire gli esseri umani nel loro compito, perché è chiaro che diciamo, oggi uno degli elementi distintivi dell'essere umano rispetto alle macchine è proprio la creatività. Quindi noi pensiamo che la creatività umana sia preziosa e che i software fondamentalmente debbano essere un mezzo per sbloccarla, per abilitarla. Quindi tipicamente noi utilizziamo la tecnologia, diciamo, per quei compiti che sono più, come dire, tediosi per l'umano, ripetitivi e automatici, mentre, appunto, sappiamo che oggi probabilmente sarà così ancora a lungo, alcune sfumature, in particolar modo della lingua, solo un orecchio e un cervello umano possono cogliere. Sì, questo senz'altro, questo c'è, credo a tutti è chiaro, sì, che se io dico tanto va la gatta al lardo, insomma, è chiaro che il sistema lo traduce, però non è che capisce il senso, no, specifico, sì, magari, sì, o il contesto nel quale io dico una certa cosa. E sì, quello senza dubbio. Ma e quindi lì funzionerà così che sì, c'è una seduta del Parlamento, mettiamo, uno dall'esterno la vuole seguire, ha a disposizione questo sistema, e dove entra l'umano, diciamo, magari a indirizzare la traduzione da qualche parte? In che momento? Sì, questo appunto, questo sarà, noi mettiamo a disposizione del Parlamento europeo una tecnologia, appunto, che un sistema che prevede che i loro traduttori ufficiali possano correggere le trascrizioni o man mano che queste vengono presentate, oppure in un secondo momento, anche non traducendole in tempo reale, ripeto, questa sarà una scelta di processo del Parlamento europeo, anche non traducendole in tempo reale, comunque le correzioni degli umani contribuiranno a migliorare le performance della macchina nelle sedute successive, perché è un sistema incrementale. Quindi correggendo gli errori, diciamo, di una seduta avvenuta oggi, sicuramente si migliorerà la performance di una seduta che avverrà nei prossimi giorni, la prossima settimana. Okay. Quindi questo è il ruolo degli umani, sì, di correggere eventuali errori della macchina. E la macchina dopo dovrebbe assorbire la correzione in modo da poterla valutare successivamente? Sì. È qualcosa che noi facciamo tutti i giorni da Translated. Translated è una società che si occupa di traduzioni professionali fatte dagli umani, i quali però hanno a supporto del proprio lavoro appunto alcuni sistemi di intelligenza artificiale che aiutano questi traduttori a fare il proprio lavoro. Quindi praticamente suggeriscono delle traduzioni per alcune frasi e il traduttore umano quindi può dire sì, va bene, oppure no, qui è meglio farla così. Quindi la macchina, apprendendo dalla correzione, la prossima volta suggerirà molto probabilmente quello che ha corretto l'umano. Quindi per le trascrizioni e le traduzioni del Parlamento europeo ci sarà una simbiosi analoga di questo tipo. Ok, ci sono alcune osservazioni da parte degli ascoltatori. Sì. Ne stavo cercando di valutare insieme quella a cui possiamo rispondere, in questo momento. Sì. Dice uno, si perde la fedeltà del discorso, ma quella si perde in qualunque traduzione, nel senso o capisci l'originale o ti fidi di colui che lo traduce, non è questione. Sì, su questo punto... io ho cercato di essere quanto meno tecnico possibile. Allora, questi algoritmi di intelligenza artificiale che spesso evocano visioni di fantascientifiche, eccetera, eccetera, cosa sono semplicemente? Nel caso della traduzione, vengono date in pasto ai computer, alle macchine, delle traduzioni fatte nel passato. Quindi migliaia di frasi, milioni di frasi tradotte nel passato, e la macchina impara a tradurre, nel senso che se chiedo alla macchina di tradurre una frase, se l'ha già vista mi darà appunto la traduzione che ha vista in passato, se non l'ha mai vista cercherà di dare una traduzione che sia quanto più possibile fedele, simile a tutto quello che ha visto in passato. Ora, il Parlamento europeo tipicamente rende pubbliche tutte le trascrizioni e tutte le traduzioni eseguite dagli umani nel passato, e fa parte di questo bando la fornitura di questi dati a chi parteciperà appunto alla realizzazione del prototipo. Quindi verosimilmente le traduzioni saranno molto molto affidabili. Quindi io capisco il contesto, ovviamente è come la stessa storia di quando si guarda un film in inglese con i sottotitoli in italiano, non è perfettamente fedele, però rende pienamente il significato di quello che si sta dicendo. Sì. Poi altre considerazioni riguardano il ruolo dell'umano in questa vicenda, no? Qualcuno lo vede come un sottoposto in realtà della macchina. Io non la vedo così, vedo che la macchina mi aiuta e io poi l'aggiusto, aggiusto il tiro. Per noi l'umano è al centro, ovviamente. Anche dal punto soprattutto di vista dal etico. Punto di vista etico, ma anche linguistico, nel senso che io ho visto, e quello mi fa rabbrividire, macchine che fanno il giornalista, ma lo fanno, la fanno molto bene, l'ho vista al Guardian per dire, la fanno molto bene se si tratta di parlare di un bilancio di una società, perché sono scritti tutti uguali quegli articoli, no? Quindi basta che la macchina impari a mettere la voce X alla riga 3 e l'altra voce Y alla riga 5, dove si mettono di solito le cose. È molto diverso se facciamo fare alla macchina un lavoro da giornalista creativo, quindi lì non gli viene bene, ovviamente, non avendo quel tipo di esperienza o di capacità, no? La programmazione che gli fa fare un lavoro diverso. Dipende tutto da che cosa chiedo e dove mi metto, in questa catena. Certo, poi fra le altre cose, i risultati di questo sistema, del prototipo che verrà realizzato, verranno ovviamente valutati da degli esseri umani in base a dei criteri che sono definiti nel bando, appunto, fra i quali ci sono la qualità della trascrizione, la qualità della traduzione, sono dei criteri molto, molto stringenti, quindi ci saranno delle persone esperte, quindi del traduttori, interpreti del Parlamento europeo che valuteranno i risultati della macchina e decideranno appunto se utilizzarli o no. C'è da dire che noi abbiamo già realizzato una demo dove io devo però salutarla, però sì. Sono contenta che appunto siamo riusciti a fare una bella discussione, abbiamo sollevato un bel vespaio, vedo, tra i nostri ascoltatori al 349-238-6666. C'è GR24, torniamo subito dopo. Grazie a Simone Perone. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ma cos'è quest'estate? Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Jim's the death of you. Parliamo di corsa adesso, ma non questo tipo di corsa di cui stiamo ascoltando, la corsa russa al vaccino anti-Covid. In realtà è la corsa mondiale al vaccino contro la Covid. Prima però devo una risposta, o meglio una risposta, una considerazione su un messaggio che è arrivato su quanto accaduto a Beirut, queste esplosioni. Dice parlate con i corrispondenti, che poi vabbè, uno non era corrispondente, comunque persone a Beirut che parlano chiaramente di incidente, poi nel radiogiornale ripetete le parole di Trump, le chiama deliranti. Allora, sia l'una che l'altra sono versioni, nel senso che al momento questo sappiamo. Anche il corrispondente dell'AGI che abbiamo interpellato, che è lì in Libano, certo non ha la verità in tasca, ci ha detto quanto il governo libanese sta dicendo e quanto israeliani ed Hezbollah stanno dicendo e Trump sta dicendo. Noi ve le diamo tutte, diciamo che abbiamo una preferenza, ma insomma non è che si può ragionare con le preferenze, bisogna parlare un po' con i fatti. A proposito di fatti, parliamo di appunto corsa al vaccino e abbiamo subito da presentarvi i nostri ospiti. I nostri ospiti sono uno in Russia, precisamente a Mosca, a proposito di agenzie di stampa, responsabile della redazione ANSA di Mosca, Mattia Bernardo Bagnoli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Il dottor Remuzzi, Giuseppe Remuzzi, che ben conoscono gli ascoltatori di Radio 24, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie a voi. Entrambi per la vostra disponibilità. Farei fare subito a Mattia un piccolo quadro della situazione in Russia, dove il 10 di agosto, se non sbaglio Mattia, il vaccino sarà registrato ufficialmente, poi si pensa già alle vaccinazioni di massa a ottobre, così? Diciamo che le notizie che abbiamo è che entro il 15 di agosto il vaccino dovrebbe essere registrato ovviamente in Russia, quindi diciamo con la licenza a procedere del Ministero della Sanità. Dico e preciso in Russia perché su questo fronte, cioè sul fronte vaccino, c'è già un po', diciamo, una polemica, però un battibecco in corso fra l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la Russia, perché ci sono delle procedure internazionali per quanto riguarda il vaccino e in questa corsa al vaccino la Russia sembra Usain Bolt, nel senso che improvvisamente in pochissimo tempo un po' dopatina, dici? Ma no, do Bolt poi per carità, dopato mai, però ha in mano, sembra l'elisir appunto della lunga vita. Il problema è che per quanto possiamo sapere noi, chiaramente la Russia da questo punto di vista ha una lunga tradizione sulla vaccinazione. I suoi specialisti militari sono stati quelli che hanno praticamente scoperto il trattamento per l'Ebola, tra l'altro una parte di quelli è stata anche l'Italia nell'operazione Bergamo-Brescia. Bergamo-Brescia e anche in Russia, tra l'altro, al tempo anche abbastanza candidamente si parlava del fatto che gli esperti militari, grazie alla missione in Italia, avrebbero acquisito importanti elementi per capire come combattere il virus, perché in quel momento l'Italia era lì più centro. E tant'è vero che adesso, ad esempio, il team di Oxford sta conducendo le sperimentazioni in Brasile, perché il Brasile adesso si è spostato l'epicentro. Per cui diciamo che questi sono argomenti molto complicati e la Russia indubbiamente può avere le capacità, questo voglio dire, non è solo propaganda, la Russia ha indubbiamente le capacità e il know-how per poter sviluppare questo vaccino, per averlo fatto prima di tutti e per averlo fatto bene. Allo stesso tempo però la corsa al vaccino, come tra l'altro hanno detto gli stessi russi, è diventata la corsa allo spazio del XXI secolo, o perlomeno al momento. E quindi loro vogliono, come per la corsa allo spazio, lanciare lo Sputnik, arrivare con Yuri Gagarin e dire: ecco, siamo qua e siamo i più forti di tutti. Può essere questa, in questo caso può anche esserci un bel ritorno economico, poi, tra l'altro, perché quando ce l'hai in mano forse c'è anche un bel ritorno economico. Loro stanno già dicendo che hanno negoziati con l'India, il Brasile e altri paesi per diciamo produrre localmente il vaccino. Tra l'altro la Russia ha già prodotto un farmaco che si chiama Lavifavir, che tra l'altro anche lì adesso lo stanno esportando in America Latina, che è registrato come farmaco anti-Covid, che è un'elaborazione di un farmaco poi in realtà sperimentale prodotto in Giappone, su cui l'Italia si è anche già fatta un bel pezzo di polemica. Quindi il discorso è: i russi da questo punto di vista vanno avanti come dei treni, puntano le loro fiche su questo tipo di trattamento. Tra l'altro, stando ai numeri ufficiali, la risposta russa al Covid è stata anche di successo, per cui lì poi si aprirebbe tutto un altro tema, che adesso è un'altra storia, però comunque di certo c'è che i morti non sono stati fuori scala, possono anche essere un po' più alti di quello che dice il governo, ma comunque non sono fuori scala, questo ve lo posso assicurare. E quindi Mosca, diciamo che da questo punto di vista, sembra mettere un bel bandierone su questa corsa. Detto ciò, e questo va ricordato, appunto l'OMS ricorda che ci sono delle procedure internazionali di garanzia al vaccino. Tra l'altro, se si va a vedere proprio sul sito dell'OMS, quindi WHO, ufficialmente sono 26. Esatto, aspetta che qua facciamo intervenire anche il dottor Remuzzi. Buongiorno a lei. Allora, buongiorno. Ho visto anch'io, appunto, sono 26 vaccini in clinical evaluation, si legge, più la bellezza di 139 invece a uno stadio precedente. Effettivamente una corsa. Intanto però, se ha considerazioni su quello che sta accadendo in Russia, di cui abbiamo appena detto. È molto difficile, perché informazioni ufficiali non ce ne sono e non c'è niente di pubblicato. Quindi stiamo agli annunci stampa per il momento. Sì, una cosa interessante è che ha detto Fauci, che è il capo della task force degli Stati Uniti che si occupa di Covid in questo momento, un grande esperto di AIDS, ha detto: beh, insomma, io mi auguro che prima di testare questo su qualcuno loro abbiano fatto tutti i test che chiunque richiede prima di cominciare a trattare la popolazione. Noi, è proprio come è stato detto dal vostro corrispondente, sembra la corsa allo spazio. Nella lista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è un vaccino registrato russo in fase 3, e nonostante loro dicano che stiano facendo la fase 3, quindi c'è qualcosa che non dico preoccupa, ma insomma che andrebbe chiarito. E quindi è molto difficile, da quello che io capisco, lo so anche per aver avuto al Mario Negri diversi studenti russi, che è molto difficile separare la scienza dalla politica e dalla propaganda politica in Russia, quindi non possiamo dire molto. Questo finché non lo vediamo, in probabilmente sostanza. C'è le capacità di produrlo, ci sono le strade che sono state fatte finora, non sono quelle ufficiali, aspettiamo di vedere che siano fatte tutte le registrazioni e tutte le cose che servono per arrivare a trattare gli uomini, per poter dire c'è e magari è anche il migliore disponibile sul mercato. Qui, per chi avesse curiosità di andare a vedere questo elenco sul sito dell'OMS, appunto il vaccino russo tra i 26 in clinical evaluation c'è, ma appunto manca, diciamo, la crocetta sulla fase 3 di cui ci diceva appunto esatto. Adesso. Quindi vediamo le crocette sulla fase 1, in realtà fino a ieri non c'era neanche la 2 e non c'è neanche la 3. Però appunto l'annuncio è sicuramente questo. Degli altri 25 a questo punto vediamo davvero rappresentato tutto il mondo, dottor Remuzzi, cioè vedo Cina, vedo ovviamente quello University of Oxford con AstraZeneca, che tra l'altro veniva studiato anche in Russia da una azienda privata, perché c'è la, mi pare si chiamasse, sì, si chiama R Pharm, che è, credo, la consorziata russa di un'azienda tedesca, che si è un bel po' risentita di quest'altro vaccino statale. E tutto il mondo è veramente coinvolto in questa ricerca. Sì, è impressionante, coinvolto tutto il mondo. Diciamo che chi è più avanti di tutti sono gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Cina, la Francia l'Australia. E noi partecipiamo di più di uno come Italia o noi solo di quello di Oxford? Noi partecipiamo a quello di Oxford e poi ci sono di nuovo un paio di annunci. Uno è Biotech Reitera, che è un gruppo che è stato poco fa autorizzato dall'AIFA, ma siamo in fase 1, sembra un vaccino abbastanza innovativo. E poi ci sono altri due centri italiani che fanno riferimento all'Università di Londra, di Milano Bicocca e alla ATS di Monza, e avrebbero iniziato una fase 2. Anche qui non abbiamo pubblicazioni e non abbiamo informazioni più di questa, però potrebbe darsi che anche l'Italia possa partecipare a questa sfida. Ma noi perché non ne abbiamo? Nel senso, come funziona qui la... No, sono le varie aziende, vari consorzi in questo caso. Beh, comunicano e dicono siamo in fase 2? La maggior parte delle persone comunicano all'OMS la fase che stanno facendo, ma molti pubblicano i loro lavori. Per esempio il vaccino di Oxford ha già due studi pubblicati, uno nel British Medical Journal e uno nel Lancet, che coinvolgono 1072 volontari. C'è un report del vaccino cinese che è stato pubblicato e anche il vaccino Moderna, quello degli Stati Uniti, quello che è Moderna è una joint venture, tra un'avventura comune tra Moderna e il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta, e questo anche lì è stato pubblicato. Sappiamo che è un vaccino a mRNA, sappiamo come funziona, sappiamo che dà risposta immunitaria e sappiamo che questo lunedì dovrebbe essere cominciata la fase 3 con 30.000 partecipanti, quindi la maggior parte delle compagnie, le più credibili, le più forti, quelle che sono più avanti, danno tutte le informazioni, le danno all'OMS attraverso pubblicazioni. Comunque sono 23 i vaccini che si stanno sperimentando nell'uomo e la strada però è molto lunga, salvo che non si facciano due scorciatoie. La prima è quella di produrre un vaccino in grandi quantità, anche se non abbiamo fatto tutti gli step, quello di essere sicuri che non faccia male, di averlo fatto in abbastanza volontari, di aver visto che genera una reazione anticorpale, che gli anticorpi sono quelli giusti per neutralizzare il virus e che non si prende la malattia se si seguono due gruppi di pazienti per molto tempo. Se non sono fatte tutte queste cose, uno lo produce lo stesso, se poi alla fine non andrà bene lo butta via, e questo è un sistema che hanno fatto negli Stati Uniti e certamente consente di sprecare tanti soldi ma di risparmiare tantissimo tempo, perché se poi per caso tutte queste fasi vengono positive tu il vaccino ce l'hai già. Un'altra strada che è anche molto interessante e che è stata sollecitata anche da molti premi Nobel è quello di infettare persone con il coronavirus dopo averle vaccinate e dopo aver verificato che abbiano una risposta anticorpale e che gli anticorpi siano quelli giusti per fermare il virus. A quel punto lì tu hai una persona che è stata immunizzata col vaccino, vedi che agli anticorpi gli inietti il virus e vedi che non si ammala. È un po' più pericolosina, non tanto, ma certamente questo ti consente una risposta in 15 giorni. Ok. Va bene, no? Stavo pensando all'idea di essere cavia di questa cosa, insomma, se mi metterebbe molta ansia, credo che ci voglia un bel coraggio anche da un punto di vista. Bisogna tener conto che le prove saranno talmente tante, le evidenze sia negli animali che negli uomini di efficacia per la produzione di anticorpi e di evidenza che le scimmie non si ammalano, saranno così forti che il rischio non c'è, ma non è poi così alto. E d'altra parte il beneficio per la popolazione mondiale è così grande che non sarà difficile trovare dei volontari. Naturalmente c'è un gruppo di premi Nobel che ha raccomandato a chi sta facendo questo o ha intenzione di fare questo tutta una serie di indicazioni: le persone devono essere giovani, in perfetta salute, non avere problemi, non avere avuto altre malattie. Insomma, ci sono tutta una serie di concern di tipo etico, di preoccupazioni di tipo etico che saranno rispettate. Allora, torniamo a Mosca. Mattia Bernardo Bagnoli dell'ANSA, ricordo, ho letto che le vaccinazioni dovrebbero essere gratuite, queste con questo vaccino di cui stiamo parlando. Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Allora, in merito a quello che una piccola nota, in merito a quello che diceva il professore, ricordiamo che l'istituto che lo sta sviluppando, il Gamaleev, praticamente lo sviluppa in collaborazione con il Ministero della Difesa, quindi c'è dentro una parte di militari in questo vaccino, quindi io penso che in parte forse un elemento di maggiore non trasparenza c'è anche perché ad esempio credo che dentro ci siano degli elementi di sicurezza militare che forse gli stessi militari non vogliono rivelare. E se il metodo è quello appunto suggerito dai Nobel, dei premi Nobel, penso che se ci sono dei mezzi militari russi abbiano sicuramente preferito accorciare la strada nella maniera più possibile immaginabile. Per cui in sicurezza sicuramente credo, ma sicuramente avranno fatto le cose a velocità della luce. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, il rollout di questo vaccino, si parla già a fine agosto per quanto i key worker, quindi insegnanti e personale della sanità, e poi popolazione generale a ottobre. Sicuramente gratuito, bisognerà vedere come lo recepirà la popolazione. Verrà tanto inizialmente sempre proposto, no, a categorie prima più deboli, non lo so, più soggette, certo, contatti, certo. Quindi e poi via via tutti gli dicono altri, bisogna vedere la reazione, esatto, certo, anche della popolazione. Bisogna vedere la popolazione, dicono che nessuno verrà obbligato a fare il vaccino, per cui per adesso sembra che non ci sarà una obbligazione, una vaccinazione coatta della popolazione. Da gennaio sembra che siano in grado di produrre 10 milioni di dosi al mese. Ora la Russia conta 144 milioni di persone, i calcoli si fanno abbastanza in fretta. Anche con questa furia ci vuole del tempo per vaccinare tutta la popolazione, però come abbiamo già detto, anche perché i siti di produzione in Russia dei medicinali non mi risulta siano tantissimi, tant'è che ci sono varie, no, joint venture, partnership di aziende tedesche, italiane e così via, non è che siamo a posto sulla produzione farmaceutica. No, no, infatti questo è il discorso, loro possono anche essere molto bravi sulla ricerca, poi cosa da vedere, ma comunque hanno una tradizione che può andare in questo senso, però è chiaro che tra il dire e il fare, no? Tra il dire e il produrre c'è di mezzo un bel pezzo, quindi anche lì, però questo è un modo sicuramente molto aggressivo, ma questo è un modo anche per modernizzare un settore. Chiaramente adesso si stanno spostando miliardi di rubli e quindi può essere anche un modo per attrezzare una filiera che fino adesso è stata scarsa e che ha vissuto di import substitution, cioè anzi ha vissuto di importazioni, e che recentemente il governo ha cercato di implementare una politica appunto di import substitution e quindi di partnership, joint venture per impiantare nel sistema produttivo russo un'economia farmaceutica, un settore farmaceutico moderno, cosa che fino adesso appunto, come giustamente dicevi tu, non avevano. Quindi insomma siamo davanti a un grande punto interrogativo, siamo ovviamente tutti un po' stupiti dalla forza giornaliera con cui ormai loro ci informano, loro dico il governo, le autorità informano puntualmente su che cosa stanno facendo. Si inserisce forse in un contesto di propaganda un po' nazionalistica che è in fase di crescita, direi, negli ultimi mesi. Ma certo, indubbiamente, però quello che diceva anche un po' il professore, cioè se il mondo in corsa, come si fanno queste procedure? Cioè le procedure, il meglio si sa è nemico del bene, no? Allora il punto è come si fa a mettere in sicurezza il mondo? Si può mettere in sicurezza il mondo in modo perfetto in 3 anni o si può mettere in sicurezza un paese o perlomeno le fasce più deboli di un paese magari non in modo perfetto ma sufficientemente buono in molto meno tempo? E dobbiamo domandarci, perché questo è effettivamente anche un dilemma etico per tanti, perché il discorso è se funziona e sono stati fatti tutta una serie di test che garantiscono la sicurezza per la popolazione, ma non abbiamo il percorso certificato perfetto dell'OMS e se la Russia decide di andare avanti e ha ragione lei, che la Russia prenderà un vantaggio competitivo enorme rispetto all'Occidente, perché significa che uscirà dal coronavirus prima. Certo, hai ragione anche su questo punto. Subito. Hai ragione. Voglio chiedere ragazzi un'ultima cosa al professor Remuzzi, che è una domanda che arriva da un ascoltatore. Dice: le sperimentazioni fatte da piccoli centri di ricerca possono avere la stessa qualità di quelle fatte dalle multinazionali? Io direi che qui è il genio che conta. Sì, certo, certe volte le grandi idee delle multinazionali vengono dall'aver comprato dei gruppi, piccoli gruppi di ricerca che hanno delle intuizioni molto importanti. Pensate al sofosbuvir per la cura dell'epatite C. L'epatite C è stata eradicata da un farmaco che è stato poi comprato da un colosso che è Gilead, che ha venduto questo farmaco a un prezzo altissimo, ma il prezzo in realtà includeva il fatto di aver comprato questa piccola company dove c'erano delle persone che hanno fatto veramente, hanno avuto l'intuizione e hanno creato il farmaco. Quindi è assolutamente così, come dice lo spettatore, è giusta questa idea. Allora, io vi ringrazio entrambi. Vorrei Sergio da Padova, ci sei ancora? C'è ancora, mi perdoni il tuo, mi è scappato. Sì, mi senti? La frizione. Mi senti? Sì. Sì. Sergio, ci dica al volo la sua osservazione. Al volo. Beh, professor Muzzi, ma in buona parte anticipato. Il tema era quello che secondo me avere una nazione grande come la Russia che si fa da battistrada a provare sulla sua popolazione come va un vaccino, ma che mi pare la cosa ideale dal punto di vista di dire andiamo a vedere e abbiamo poi, loro sono in pratica gli sperimentatori, io sono convinto effettivamente che la Russia invece avrà sarà un vaccino valido e c'è poi quel discorso là, è inutile dare la terapia quando il paziente è morto, come ha detto il professor Remuzzi. Se noi andiamo con il metodo perfetto di tutto quanto, e allora a quel punto arriveremo tardi, avremo tanta gente che è morta inutilmente. Sergio, grazie dell'osservazione e dell'attenzione che ha posto in questa trasmissione. Sono le 9:28, noi dobbiamo salutare i nostri ospiti, Mattia Bernardo Bagnoli da Mosca, corrispondente dell'ANSA, e il professore Giuseppe Remuzzi, che ben conoscono gli ascoltatori, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, ringrazio in redazione Miriam Lucchetti, Laura Faggine, Jacopo De Franchi, Luca Cremonese, in regia Peter Bescapè, ci ritroviamo domani.